figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento. Oggi abbiamo con noi alcuni ospiti, parliamo di imprenditori immigrati. È stato assegnato infatti il premio MoneyGram Award all'imprenditore immigrato dell'anno. MoneyGram è una delle società leader nei trasferimenti internazionali di denaro, per semplificare è la numero uno dopo Western Union, e assegna ogni anno questo premio per promuovere l'eccellenza delle aziende gestite da imprenditori stranieri in Italia e premiare chi ha dimostrato capacità di leadership e di adattare con successo il proprio modo di lavorare al nostro paese. Il primo premio è andato a una donna che è qui con noi telefonicamente, Edith Elise Yamazava. È così il suo cognome? Buongiorno intanto. Allora, lei viene dal Madagascar e è in Italia da qualche anno, risiede vicino a Torino, è titolare di una società che si occupa di import e commercializzazione di spezie. È così? Sì. Abbiamo con noi anche un'altra delle finaliste, ossia Luz Adriana Poveda. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Lei invece arriva dalla Colombia, è in Italia dal 91, risiede a Milano ed è titolare con la figlia di una società con sede nella capitale, nel capoluogo lombardo, che fornisce servizi di pulizia civili e industriali. È così? Sì, sì. Allora, Edith, ci racconta la sua storia. Innanzitutto complimenti, perché il primo premio è andato appunto a lei e a una donna. Tra l'altro l'imprenditoria femminile immigrata si è aggiudicata 4 premi su 6, quindi complimenti alle donne imprenditrici immigrate. Lei quando è arrivata in Italia? Grazie. Allora, sono arrivata in Italia perché ho sposato un italiano che ci siamo incontrati in Madagascar, quindi mi ha portato qua giù. Semplicemente giusto per fare una passeggiata, poi ci sono rimasta. Una lunga passeggiata. È una lunghissima passeggiata, quindi da 12 anni fa che sono qua, quindi 6 anni da questa parte ho avuto questa idea di mettere in piedi questa attività che abbiamo già in Madagascar. Quindi era un'attività già avviata in Madagascar? Si è avviata nel senso che hanno praticato la mia famiglia nella loro moda, perché è già tramandata da 4 generazioni. Allora, le spezie del Madagascar sono molto famose, fra queste soprattutto la vaniglia, una vaniglia la naturale. Vaniglia. Sì, ed è con questo naturale. Prodotto che lei ha avuto successo? Sì, con questo prodotto e dal 2008 ho introdotto anche tanti altri tipi di prodotto, sempre comunque provengono sempre del Madagascar. Da quindi che zona del momento, Madagascar? Da quale zona? Nord-est. Quindi in questo momento quelle diceva che... quante spezie commercializzate? Noi abbiamo 20 tipi di spezie in questo momento, però da settembre in su avremo anche magari all'incirca 25 tipi di spezie, sempre a provenienza del Madagascar, perché stiamo facendo delle ricerche che mi fanno, laggiù mi fanno delle ricerche che esistono queste spezie che io non avevo mai conosciuto, però adesso stiamo allargando anche di avere tanti tipi di spezie sempre a provenienza del Madagascar. Ecco, tutto questo contribuisce anche a creare occupazione nella sua terra di origine. Si calcola infatti che ci sia anche un indotto di persone del Madagascar impiegate in aziende agricole del Madagascar. Quante persone sono state impiegate per il vostro lavoro? Non soltanto l'azienda di mia famiglia, perché in una città altro tipo di prodotto, quindi ci sono 20 persone nell'altra città, quindi si moltiplica, quindi ci saranno tante persone lavora su questi prodotti. Quindi ad esempio nella nostra zona c'è la vaniglia, chiodi di garofano, il caffè, e poi dall'altra provincia c'è un'altra cosa. E adesso comunque stiamo scoprendo ancora tanti altri tipi di spezie, quindi si allarga, perché lì comunque non abbiamo ancora dei macchinari. Tutti questi lavori si svolgono sempre sul fisico, a mano, quindi per fare una cosa ci deve essere un sacco molte di persone per farlo. Complimenti ancora a Edith e passiamo a parlare dell'attività di Lutz, che come dicevamo si occupa di pulizie. Lei impiega persone italiane o straniere e quante persone? Beh, noi abbiamo un po' di tutto, siamo in 28 collaboratori più 8 ditte esterne che collaborano con noi, tra loro ci sono 2 italiani e poi gli altri saranno Colombia, Perù, Ecuador, Egitto, Romania, Filippina, Eritrea, un po' dappertutto. Sì, se non sbaglio, il numero di addetti è fortemente cresciuto in questi anni. Siete passati da 18 impiegati nel 2007 a 26 nel 2009. Sì. E anche il giro d'affari è aumentato? Sì, è aumentato. Noi abbiamo aumentato abbastanza tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Mi sembra di capire che poi lei faccia anche qualcosa per facilitare l'integrazione e la qualità del lavoro dei suoi dipendenti. Sì, io cerco, per me è una cosa molto importante fare la formazione prima in quanto alla lingua, perché quasi tutti noi stranieri arriviamo e non ci occupiamo mai di imparare l'italiano. Allora, siccome ho un grande problema, cerco di chi arriva e non parla bene fare dei corsi italiani, poi anche facciamo formazione per imparare a pulire, perché anche per pulire ci vuole le sue tecniche, ci vuole usare anche il cervello, perciò cerco di che le cose si facciano bene, però certo comunicando meglio. Signora Lutz, lei quando è arrivata in Italia e come è arrivata? Allora io sono arrivata nel 91, sono arrivata a Lugano, che avevo una cugina sposata con un ragazzo in Svizzera, quindi sì, che non potevo stare là. Dopo un mese le ho detto portami alla frontiera più vicino, mi ha portato, perché non volevo tornare in Colombia senza niente, mi ha portato a Como e da lì è iniziata la mia avventura. Era da sola? Sì, ero da sola, non avevo nessuno qua. E adesso è con la figlia? Adesso tutti e due i miei figli sono qua, mia figlia lavora in azienda, è diventata anche socia e anche mio genero lavora con noi, mio figlio lavora anche i weekend con noi. Insomma, un'azienda di tipo familiare che è stata premiata, lo ricordiamo, con il MoneyGram Award, un premio per l'imprenditoria immigrata. E abbiamo con noi, anche abbiamo raggiunto telefonicamente, Hermes. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei. Le chiedo cortesemente di spiegarci il suo nome per esteso, perché io non riesco a pronunciarlo bene. Il mio nome è Hermes Gregorio Villalobos Plasencia. Ecco, lei è peruviano. Sono peruviano, sì. Ed è in Italia da quanti anni? In Italia sono da 15 anni più o meno. Sta a Roma, ha conseguito una laurea in Perù. Sono stato a Roma, sì, ho una laurea in Perù, tecnico industriale, più o meno ingegneria meccanica, credo. Un altro mestiere che faceva là, che non lei faceva niente con l'ingegnere, esatto. E adesso invece che cosa si è inventato in Italia? Praticamente il primo giorno che sono arrivato qua ho iniziato a lavorare in muratura con una ditta specializzata in ristrutturazione, questa roba qua. E tutto quanto lo che si occupa era appartamenti, ristrutturazione, impianti elettrici, idraulici. E poi è rimasto disoccupato nel 2004. No, non è che era disoccupato, sino che era il discorso che come lavorava tanto, con tanto conoscimento che ho imparato di qua, aveva detto al mio ex principale se mi aumentava di altri 20 euro. Come lui mi ha detto che non ce la faceva più, allora ho dovuto creare questa piccola impresa e io ho raggiunto quello che ho fatto adesso. E lei ha vinto con una categoria, quella per l'occupazione, perché è riuscito a dare lavoro a molti stranieri, ma anche italiani. Anche italiani, sì, lavoriamo con ditte esterne, lavoro con ditte esterne, ossia che si occupano di impianti elettrici, che si occupano di impianti idrici. Quanti addetti avete? Adesso su per giù siamo sul 41 più o meno, 40, fra cui anche degli italiani, dei dipendenti italiani, peruviani, rumeni. Senta Hermes, ma lei non sente la crisi? Come fa a resistere? Anche i nostri italiani hanno difficoltà. Veramente che la crisi io non l'ho sentito, perché giustamente ho preso dei lavori grossi, quindi stavamo impegnati più o meno un anno, mezzo, due anni di lavori, quindi non l'ho visto questa crisi. Quindi una sinergia di cultura lavorativa che viene da diversi paesi per ottimizzare le specificità di ciascuno. Mi pare di capire che lei in ognuno, in peruviani, nei rumeni, negli italiani, trova una specificità che le può servire per il lavoro. No, perché praticamente io tratto di mettere tutti insieme a loro, che perché una ditta deve essere composta da tanti operai che sono, e lo sai, ognuno c'ha il mestiere suo, e quindi io tratto di entrare dentro di maniera che la persona che sta lì tratta di imparare di quel rumeno, di quell'italiano che loro devono imparare, così come l'italiano si adegua al modo di lavorare del peruviano che del rumeno. Insomma, vi adattate ciascuno al modo di lavorare dell'altro. Sì, infatti io adesso sto in cantiere, ci stanno gli italiani, i rumeni, i peruviani che stiamo lavorando insieme adesso, e trattiamo di organizzarnos bene, come tutti i giorni che vengo a tutti i cantieri, che vengo a vedere questo tipo di lavorazione. Grazie allora agli ospiti di oggi che sono stati con noi, Hermes, Lutz e Edith, che sono i finalisti e i vincitori anche di questo premio MoneyGram, che è un premio dato agli imprenditori immigrati che si sono stati più bravi nel promuovere le loro aziende, ma sono anche cresciuti di più, hanno anche delle specificità, e vedremo il prossimo anno quali saranno premiati. Per ora il nostro tempo è scaduto, io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre 14:15 sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore.